Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Float with me into the mouth of the Columbia. Float with me into the mouth of the Columbia. Move downstream. È la seconda parte di Eclettica, ma prima di partire con questa seconda parte vi devo ancora qualcosa in relazione alla prima parte. Infatti abbiamo chiuso con un brano che era un'assoluta novità, un album in uscita il 29 di gennaio per Voodoo Eros dal titolo Lion Land, Lotus and Hassle, a nome Queen Walker, una one man band praticamente. Il pezzo si intitolava Baby Neon. Like the Roth non c'è assolutamente bisogno di presentazioni per The Columbia, ed ora invece con orgoglio vi posso dire che vi anticipo e di parecchio quello che sarà il nuovo album dei Destroyer. Merge è l'etichetta, Trouble in Dreams è il titolo dell'album, e il pezzo, e che pezzo, si intitola Foam Hands. True love regrets to inform you there are certain things you must do to perceive his face in the stains on the wall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Firm hands. Since you've been gone. He lives down the hall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Marty, you all set? Yeah, go. Train full now, the station. Coming up the switch start. Stop at the switch start. Throw switch. Pull up to the DeLorean. Pushing the DeLorean. Up to 88 miles per hour. It couldn't be simpler. Shaking and you're always aching, but you know how hard you try. be this way everywhere, and I'm gonna let you pass. Yes, and I'll go last. And time will tell who has failed and who's been left behind. When you go your way and I go mine. Well, the judge, he holds a grudge. Morte non porta tristezza, solo un vuoto immenso. E questa è la cosa più spaventosa. Tutte le cose belle, tutte le nostre convinzioni, le nostre idiosincrasie precipitano in un buco nero. E all'improvviso si scopre di averle perse perché non c'è più nulla dentro di noi. Ti petti bassi, impettiti e grassi, sotto l'elmetto di bugie vampazzi. Vieni in fretta, amore, vieni da me. Io amo te e tu ami me. La canzone dei topini di legno fu l'unica cosa che uscì da quel vuoto che ormai occupava ogni spazio dentro di me, ma andava bene e con un filo di voce la canticchiai a Pepsi, il mio bambino. Sprofondando la testa tra le mie ginocchia mi strinse con ancora più forza, disperatamente. Che bel sogno per i topini di legno, formaggio di sego e sciroppo di stagno. Lui stava piangendo e io ero la sua mamma. C'era rimasto solo quell'istante. Sei il mio campione, Pepsi. Sono così orgogliosa di quello che hai fatto. Ti amerò per tutta la vita. E se esiste qualcosa oltre la morte, continuerò ad amarti anche dopo. Lo sai, vero? Questo era ancora Ossi di Luna, di Jonathan Carroll. You're right. Giulio Caperdoni a tenervi compagnia fino alle ore 20, così succede tutte le sere sulle frequenze di Rock FM con Eclettica. Però questa sera si chiude venerdì, infatti sabato e domenica non si va in onda, però nel caso abbiate nostalgia di questa trasmissione ricordatevi del podcasting. Ci siamo appena ascoltati prima Bob Dylan remixato e poi Sigur Rós, ma soprattutto sul prossimo brano che vorrei concentrarmi in quanto è una novità per un duo italo-tedesco. Infatti ci sono lui, Mark Herbert, tedesco, e lei, Silvana Battisti, italiana, a formare i Woog Riots, che escono con un album dal titolo Strange Love TV per l'etichetta di nome What's So Funny About. Woog Riots che ci ascoltiamo con il pezzo dal titolo Queen of Pop. Alvin Williams era fuggito dall'istituto psichiatrico 2 ore prima. Il dottor Lavery si era del tutto dimenticato di me nei primi momenti di confusione generale. Appena se n'era ricordato, aveva avvertito la polizia, ma ci avevano messo un po' ad arrivare. Williams aveva fermato un taxi e strangolato l'autista, rubandogli i soldi e sottraendo dal baule della macchina leva cerchioni di ferro. Leva cerchioni, fu così che lo chiamarono i poliziotti. Ecco cos'era. Alvin aveva ancora la chiave del palazzo in tasca, la custodiva come una reliquia e per questo all'istituto gli avevano consentito di tenerla. Non permisi che i poliziotti toccassero May, né il levacerchioni. Portarono via Elliot, poi portarono via Alvin, ma non lasciai che si avvicinassero a May né al levacerchioni. Quando mi domandarono come avessi fatto a salvarmi, scrollai le spalle e risposi che era stato Pepsi. Non mi fecero altre domande. Danny si occupò del funerale di Elliot, e organizzò il trasloco in un nuovo appartamento 9 giorni dopo. Adesso viviamo su Riverside Drive e dalle finestre si scorge un pezzettino di Hudson. Danny racconta ridendo di aver dovuto comprare 3 persone per ottenere quella vista, ma ci teneva troppo. Voleva che potessi vedere il fiume. A letto, ieri sera, ha detto che desiderava poter chiacchierare con me per il resto della sua vita. Quando ci svegliamo e prima di andare a letto, ha detto che sarà bello diventare vecchi insieme. Sapete che cosa mi sono già chiesta un mucchio di volte? Se Elliot adesso sia con Pepsi. Anche se fosse finito a Ophir Zeke, sono certa che Pepsi sarà andato a tirarlo fuori di lì in un battibaleno. Sarebbe meraviglioso. Si divertirebbero da matti tutti insieme. Non ci sono parole per dire quanto mi mancano. È difficile convincersi che casa nostra è il luogo in cui abitiamo e non quello in cui abbiamo lasciato il cuore. A volte ce la faccio, a volte no. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Cary. Gentlemen, as mayor of Hill Valley, it gives me great pleasure to dedicate this clock to the people of Hill County. May it stand for all time. Hit her with a hammer, teeth smashed in, red tongues twitching, look inside a skeleton. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 7, volume numero 5, indice, Creeping Weeds, Nano, Sitei, Pa Shik Shik, Queen Walker, Lack Thereof, Destroyer, Bob Dylan remixato da Mark Ronson, Sigur Rós, Ugg Riots, Kaku Kanu, PJ Harvey. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.